appunto la situazione a Bologna è che sono in incremento, come in tutta Italia, sia i casi di contatti, questo lo leggiamo dai giornali, sia il numero di pazienti ricoverati. Certamente i casi non sono né così numerosi né così gravi come erano nella primavera, diciamo nella prima pandemia, sono di meno i pazienti in terapia intensiva e anche tra quelli che sono in terapia intensiva sono di meno quelli molto gravi, quelli che noi definiamo intubati, cioè attaccati alla macchina, però certamente sono in aumento. Io credo che il tema debba essere che cosa facciamo tutti noi come cittadini prima ancora di che cosa fa la sanità. La sanità ovviamente deve fare il suo mestiere e lo fa avendo investito risorse, uomini e mezzi maggiori rispetto a quelli che c'erano nel marzo-aprile dell'anno scorso. È vero che l'età media si è abbassata? Sì, l'età media si è abbassata, l'abbiamo visto, non solo quest'estate quando c'era tutto il picco legato alle attività più o meno frenetiche, che diciamo di alleggerimento estivo. Oggi ci sono pazienti anche gravi, che noi ne abbiamo avuti un paio sotto i 30 anni, e poi ci sono i grandi anziani, e quelli purtroppo ci sono sempre, perché le polmoniti nei grandi anziani, che siano da Covid o che siano da altri germi, sono ovviamente molto difficili da trattare. La sanità negli ultimi mesi si è rivoluzionata, adesso avete cure migliori per trattare questi pazienti? La prima cosa è che ciò che come cura si è andato sviluppando in questi mesi comunque viene messa in atto prima. Noi ci ricordiamo tutti che a fine febbraio, la prima metà di marzo, in realtà i pazienti un po' non lo si sapeva, un po' non venivano colti nella loro gravità, stavano a casa e si diceva dopo qualche giorno di febbre vieni. Adesso per fortuna per scelta non è così, quindi i pazienti arrivano prima all'osservazione dei sanitari. In più alcune cure si sono sviluppate, alcuni farmaci oggi si usano con risultati migliori, ma complessivamente il tutto avviene soprattutto più precocemente, ed è esattamente questo secondo me che ci rimanda alla responsabilità sociale che abbiamo tutti noi che facciamo sanità e voi che, se posso dirla così, fate i cittadini, perché o noi davvero riusciamo a comprendere che sono i comportamenti sociali quelli che poi hanno dietro le solite tre regole, lavarsi le mani, il distanziamento e la mascherina, questo diminuisce il girare del virus, quindi questo diminuisce il numero di contatti, questo diminuisce il numero dei pazienti che hanno sintomi, questo diminuisce il numero dei pazienti che hanno bisogno di ospedale e quindi anche di letti intensivi. Tutto nasce da una sensibilità sociale, una responsabilità collettiva. Per quanto riguarda i posti in terapia intensiva in ospedale e il personale, ora il fabbisogno è soddisfatto? Il fabbisogno è in via di adeguamento alle necessità che stanno crescendo, come ci stiamo dicendo. Le necessità di adesso non sono quelle di due settimane fa, e questo l'abbiamo visto, e tutti noi speriamo che le necessità delle prossime due settimane non siano con una curva che aumenta così come è aumentata nelle ultime due. Comportamenti collettivi, torno lì, devono essere quelli che rallentano la crescita, possibilmente la appiattiscono o addirittura la fanno calare. Sappiamo che questo è impossibile che avvenga, almeno nei prossimi 15-20 giorni. Abbiamo risorse ancora aggiuntive da poter dedicare anche alle terapie intensive, reclutando personale in modo da efficientare al massimo il sistema. Sono già stati assunti in più a Bologna anche, e le aziende sanitarie hanno aggiunto in modo importante del numero di personale, medici e infermieri, e poi sappiamo che ci sono alcune difficoltà, i medici specializzati sono pochi, le scuole di specialità ne sfornano pochi, questo è un tema noto da alcuni anni, anche da alcuni mesi, probabilmente adesso si sblocca la possibilità di usare specializzandi all'interno del mondo del lavoro, e quindi ci sono difficoltà oggettive, purtroppo note da tempo e frutto di una programmazione poco lungimirante. Ha richiamato più volte la responsabilità dei cittadini, spesso manca. Le nuove misure varate dal governo possono andare a correggere e a, come dire, prevenire la diffusione del contagio? Adesso non le ho lette tutte nel dettaglio. Noi abbiamo bisogno ovviamente di fare in modo che ci siano meno contatti ravvicinati, e che ove ci siano i contatti ravvicinati avvengano sempre con i tre strumenti fondamentali di protezione che citavo prima. È evidente che questo ha da avvenire diminuendo le occasioni di frequentazione ravvicinata. Sappiamo tutti che c'è una sofferenza sociale, economica, che è innegabile, evidente, che quindi va in qualche modo gestita. E ci sono sono altri momenti di vicinanza che possono essere gestiti sempre con grande attenzione. È per questo che vorrei che fosse chiaro, non è che il mondo sanitario dice tutto sta nella comunità dei cittadini, noi abbiamo il nostro da fare, cerchiamo di farlo al meglio, ci saranno stati certamente errori e ci adeguiamo. Quello che nasce come necessità di tutti i cittadini, anche quando noi facciamo i cittadini normali, noi siamo privilegiati, primo perché lavoriamo, secondo perché facciamo un lavoro che ci piace, terzo perché, come dire, abbiamo certamente delle conoscenze anche che dovrebbero rendere più difficile per noi ammalarci, però siamo cittadini normali e quindi dobbiamo portare tra tutti noi, tra tutta la comunità almeno della nostra città, questa informazione. Frenate ogni comportamento che non sia il più rigorosamente vicino alle regole fondamentali, perché altrimenti lo paghiamo tutti. E questa è un'informazione che forse non tutti siamo riusciti a far arrivare ai ragazzi, ai giovani, ovviamente provati da tutto quello che sappiamo che c'è stato, però la responsabilità collettiva non può non esistere.